sera. Blue Radio Sera. Blue Radio Sera. Eccoci ancora qua, buonasera da Agostino Spolore con il mio solito fedele compagno. Ciao Maurizio. Sì, buonasera da Blue Radio Veneto, questa è un'emittente che trasmette negli 88 700 e 94 600 MHz in modulazione di frequenza. E questa è anche la serata, come di consueto, giovedì, dedicata al live. Da un po' di tempo a questa parte anche il sottoscritto si è adeguato, tra virgolette, a questa nostra gioia di far sentire gli emergenti soprattutto, ma insomma la bella musica dal vivo è qui a Blue Radio Veneto. Ancora qualche dato, poi vi presento questo gruppo che ci viene a trovare, e posso dire finalmente, dopo un anno e mezzo che ci faccio la corte. Allora, dicevo, i nostri dati tecnici, allora vi ricordo il nostro numero telefonico 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms vi ricordo il 346 23 20 033, il nostro sito www.bluradioveneto.it, e poi ancora lì ci potete ascoltare in streaming 24 ore su 24, le nostre pagine su Facebook semplicemente Blue Radio Veneto, e l'altra è Blue Radio Veneto Rock Wave, come sempre ricordo gestita dal nostro direttore artistico, cioè Alberto Prisco, che succederà dopo di noi alle 22.30 con la sua classifica e la sua musica rock. Quindi serata dedicata interamente al rock questa sera a Blue Radio Veneto. Però prima abbiamo questa band che abbiamo l'onore di avere qui questa sera e ci fa un grande onore, sono i Teodasia. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Ben arrivati, eh. Grazie mille. Dopo tanto tempo. Lo so. Priscilla, permette. Dai. Dai, è andata via. Sì. Siete qui dopo un tante anno... cose sono andate, dai, è stato un anno e passa importante. Tanto. E quindi siamo qui per coronare un bel andamento di anno, di annata. Però dai. Però avete un bel sogno. Esatto, corona. Esatto, una qualcosa che si tocca ed è un bel disco fisico. Mi è piaciuto subito, infatti appena me l'hai mandato, insomma, a parte che vi ho sentito qualche canzone così su YouTube, ma mi è piaciuto subito, infatti te l'ho detto subito, insomma, di venire. Grazie. Ti volevo. Anche perché poi sapevo che mi scappavate di nuovo, andate in tournée all'estero, giusto, se non sbaglio. Abbiamo un bel po' di progetti, sì. Se vuoi te le dico dopo, adesso. Dopo. Diciamo. Intanto presentiamo. Io non vedo l'ora. Adesso ne parliamo. Maurizio. Sì, innanzitutto presentiamo il discorso da dove è nato il progetto vostro Teodasia. Nato nel 2006 da un personaggio che qui è presente. Esattamente, vai. Il batterista che non è batterista oggi. Giusto? Esatto, che oggi non è batterista. No, io appunto nel 2006 avevo un'idea. Un grande sogno e... ha fatto di tutto perché si realizzasse, dai, come qua. Ma l'idea del progetto di un certo sound un po' particolare, non dico particolare, un certo sound, un certo indirizzo, dove è nata? Assolutamente. Beh, allora, ci sarebbe molto da dire, ma in parole povere, ecco, io... In soldoni, in dai. In soldoni, io sono cresciuto con la musica... Pane metallica? Pane metallica? Più o meno. Più o meno, diciamo, va bene. Pane metallica. Prima Beatles e musica classica. Che va bene. Beatles, okay. Sono una cosa. Aprono le porte a tutti. Esatto. Perché mia madre, anche gli stessi Metallica. Mia madre me. Ha due diplomi conservatorio, quindi sempre musica classica fin da piccolo. Perfetto. E dopo a un certo punto mi sono appassionato al rock, al metal e soprattutto alle colonne sonore, da Morricone a... Sì, perché la vostra musica è molto cinematografica, secondo sì, me. Sì, sì, assolutamente. Sì. E poi è successo un bel giorno una cosa fantastica. Praticamente un mio amico mi ha fatto conoscere i Nightwish, che è un gruppo che, diciamo, fa colossal music. Per i non addetti, che cos'è il colossal esatto. music? È una specie di diciamo di musica metal che uniscono appunto è un po' più cupa, ecco, rispetto ai Teodasia, però uniscono appunto gli archi e le colonne sonore, diciamo, epiche a vere e proprie canzoni, ecco, fatte con la classica linea metal o rock, così. E io quando ho sentito questo, diciamo, ho sentito un impulso, qualcosa. Devo fare una cosa del genere, ecco. E, certo. E ho cominciato, mi sono cimentato. E le cose si sono andate avanti. E sì, poi sì. Hai praticamente costruito il progetto, la band. Assolutamente sì. Come l'hai costruita la band? Con molta difficoltà, perché mi sono imbarcato in un progetto molto difficile da un punto di vista pratico, emotivo, psicologico e tutto quanto, e finanziario soprattutto. Soprattutto finanziario. Beh, è interessante che un batterista apra il progetto di una band. Io ricordo un grande batterista che sì. era Heisman, quello di Colossimo, che sì. aveva aperto la band. Cioè era sempre davanti, il batterista è sempre dietro. Lui era davanti perché era il frontman. Vabbè, ma qua abbiamo Priscilla, quindi non ci abbiamo Priscilla, però di solito il batterista è sempre dietro. Che è anche un bel frontman. Front woman, possiamo dire. Front woman. Sì, sì, sì, sì. E, no, assolutamente, mi interessa essere davanti, mi interessa che creare appunto qualcosa di veramente fantastico per gli ascoltatori, perché è il regalare le emozioni che è la cosa principale. Ecco, hai detto la cosa giusta, regalare emozioni. Sì, io parto da questo presupposto. La musica deve sempre regalare emozioni, io resto questo idea. Bisogna. In qualsiasi momento. Io ho citato i Colosseo perché qui c'è Gianluca, è nascosto adesso, che lui è un grosso amante dei Colosseo. Prego Gianluca, ti saluto Gianluca. Già anticipiamo che sarà una serata in agosto, faremo una bella full immersion di tante ore con Rock, con lui, con Maurizio, con me, ma anche con come si chiama, Gianni Della Cioppa. Grande Gianni Della Cioppa. Salutiamo Gianni Della Cioppa. Allora, okay. Priscilla, torniamo a te, visto che sei la front woman, ci presenti la tua band allora. Fantastico, allora abbiamo il nostro fondatore, lo presento io, Francesco Gozzo. Ciao, sono Francesco Gozzo, molti anni fa. Sì, esatto. Alla chitarra, Fabio Compagno. Ciao. Al basso, Nicola Fox Falsone. Sera. Alle tastiere, Michele Munari. Ciao a tutti. Ecco, questi sono i Teodasia che sono qui questa sera a Blu Radio Veneto dal vivo. È la vostra prima esperienza a livello acustico, o quasi insomma? Quasi. Ieri sera avete... Esatto. Avete dato il là e adesso insomma... Esatto, eravamo in Romagna. Mia è la prima. In assoluto la prima, per no, te. La prima, cioè sì, tipo sempre stato batterista, mai suonato una tastiera davanti a qualcuno. Ah, innanzitutto la prima in ogni caso stasera praticamente. Sì, sì, sì, sì. Perfetto. Infatti sentiremo appunto. No, noi siamo assolutamente fiduciosi in te. Li vogliamo ascoltare già con qualcosa, Maurizio, che dici? Sì, sicuramente, apriamo il programma. Attingiamo dal loro progetto, insomma, certo. Da questo disco che si chiama Upwards. Giusto? Che significa? Verso l'alto. Andiamo verso l'alto con una canzone che io reputo straordinaria. Il video poi è bellissimo. L'ascoltiamo, poi magari ne parliamo perché mi dovete raccontare un sacco di cose. Già qualcuna le so però. Grazie. Allora, la canzone in questione si chiama Lost Words of Forgiveness. Sì. Giusto? Esatto. Same old thing again. cannot grow. You deprive the world of growth. Our task is to speak all the good, to redeem our faults, repair the fractures bleeding. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ma Priscilla, tu dovevi per forza morire alla fine. Questo lancio nel vuoto. A parte che è stata un'esperienza pazzesca, vero, girare quel video. Quando ho rivisto le immagini della mia figura che proprio spariva, proprio. È stato toccante, cioè è stata una sensazione importante sia nel farlo che nel rivederlo. Tutto questo per dire che c'è questo video che gira su YouTube, che lo trovate tranquillamente, lo potete vedere. Tra l'altro è un video splendido, girato dove? Alle Balze del Valdarno, quindi nella meravigliosa Toscana. Arezzo. Esatto, e siamo a Montevarchi, siamo andate vicino al nostro vocalist, al guest vocalist. Ah sì, a Fabio Leone, giusto? Esatto, è di Pisa. Che qui questa, non c'è nel disco, però nella canzone non c'è, vero? Sì, sì, sì. Sì. Cosa volevo dire? Ma questo è un disco, cioè questa canzone, questo video meglio ancora, è un video girato volutamente in questa maniera, insomma, per ricalcare qualcosa che vi dava un senso a questa canzone. Beh, ha raccontato una storia, è stata l'interpretazione del nostro regista, Savino Cancellara, e ha interpretato a modo suo e assolutamente in linea con quello che intendevamo anche noi, il messaggio testuale, e quindi siamo stati molto contenti di vedere che ci possono essere libere interpretazioni, ma che sono compatibili con quelle concepite in origine. Mentre l'altro è in una fabbrica. L'altro in una fabbrica, sì. Che tu, esatto, corri in giro. Io sto cercando le mie radici nell'aria. Ecco. Dopo te lo spiego. Dopo me lo spiego. Sì. Allora, questa canzone, ci spieghi questa canzone allora? Comunque. Certo, allora, questa canzone volge da monito. Si intitola Lost Words of Forgiveness, significa parole perdute del perdono, letteralmente. Cosa significa? Significa che per sanare una situazione si si possono e si devono utilizzare delle parole che parlano il cuore, che parlano i sentimenti, proprio volte a voler sanare un conflitto. Quando queste parole sono perdute è perché non sono state mai pronunciate, ed è qui che il conflitto arriva a dei livelli irreversibili, e ecco perché la caduta finale. Al di là che è il singolo, anche se non fosse il singolo, ha una forza propulsiva questo pezzo. Innanzitutto la voce che ti accompagna. Sì. Parliamo di questo musicista, di questo vocalist, che forse è il più bravo nell'ambito del genere. È assolutamente il più dotato, il più bravo. Io credo anche quello che ci metta veramente autenticità e passione nel canto, si sente. Lo utilizza come strumento, per cui per noi avere una voce che è veramente utilizzabile come strumento, ci fa quello che vuole, è stato un grandissimo dono. Abbiamo avuto a disposizione una grande voce. Ecco, adesso parliamo col fondatore della band. Come mai hai avuto l'idea di recepire questo strepitoso vocalist per fare questo pezzo? Perché sei stato te a invitarlo, non è quello il discorso? Sì. Diciamo che... E poi chiaramente col duetto con Priscilla, sì, le quotazioni sono molto alzate. Sì. Decisamente. Sì. Diciamo che lui è innanzitutto il grande... Nome e cognome, perché non abbiamo... Fabio Lione. Ecco, nome e cognome, e da dove appartiene? A che band appartiene? Rhapsody of Fire e Vision Divine. Ecco, quindi abbiamo capito tutto. Esatto. È la nostra, diciamo... Sì. Quello che ci dà più gioia in Italia è avere un cantante del genere che in tutto il mondo ha portato e ha fatto grandissime cose. Ha venduto più di 1 milione di dischi, ha fatto delle musiche stupende. E cavalca la musica, la cavalca. Sì, sì, questo sì. Pezzo è stato cavalcato da lui dal punto di vista vocale. Assolutamente, anche se abbiamo ricevuto, diciamo, delle critiche perché la linea vocale non era una linea che, diciamo, lo pompava a 100, perché lui ha grandi potenzialità. Ma oscurava la voce sua di Priscilla in questo modo. Sì, però era costruito per un duetto. Era questo che volevo dire, cioè, il duetto doveva essere così. Non doveva essere una voce più alta, una voce più bassa. Doveva essere un duetto, chiaramente. Esatto, era quello che... Quindi l'idea è partita da questo. Per quello hai avuto l'idea di fare sì, questo? Sì, no, perché intanto era un mio sogno avere nel nostro disco, ecco, Una tale portata, esatto. È bello dire questo ospite. Sì, questo ospite. Diciamolo in italiano, ospite. Ospite. Ok. Anche perché io sono cresciuto con loro e sognavo sempre durante l'ascolto delle loro canzoni, quindi per me è stata una cosa incredibile. Io sono cresciuto con i Rhapsody, Nightwish, Epica, tutte. Quindi per me è stata veramente, anche quando l'ho conosciuto, è stato un po' balbettare. C'è un po' così, di vibrazione, qualcosa. Mamma mia. Sì. Nel Taranto si dice, avevo le, come si dice nel i pianoti, ecco, i pianoti dal punto di vista proprio dialettale. E musicalmente come l'hai costruito? Perché mi interessa. Tu suoni la batteria, qui abbiamo il basso, le tastiere, c'è un impulso, proprio una forza. Sì. Io, questo brano ha parecchi anni e io l'ho costruito in parecchi anni, nel senso che la composizione originaria arriva da molti anni fa. Poi è stato rifatto, rielaborato, eccetera, eccetera, finché alla fine siamo arrivati a un prodotto molto solido, perché c'è stata una lavorazione di molti anni in questo pezzo, che è... Quindi è arrivato... Molto introspettivo. Quando l'hai proposto al vocalist, hai detto, sì, così lo voglio. Sì, no, ma sono stato contento perché a Fabio è piaciuto molto il pezzo e ovviamente a quei livelli là collabori comunque se il materiale ti piace. Hai detto una cosa giusta, se ti piace collabori, se non ti piace puoi sempre dire grazie. Esatto. Beh, giustamente. Certo, lui può scegliere, mi pare giusto. Assolutamente. Insomma, voi due scrivete tutto, fra la musica e le tracce avete fatto tutto voi due. Sì, allora ti spiego un attimo come funziona. Io praticamente scrivo i pezzi, le linee vocali e poi ho in testa le cose, l'orchestra, eccetera. Però la razionalizzazione avviene in tutti insieme. Beh, questo è ovvio. È chiaro. Priscilla ha un lavoro molto grosso, che è quello là dei testi, di dare la voce alla musica, di dare le parole alla musica, diciamo portare razionale quello che arriva a me in maniera irrazionale. Ma nascono prima le tracce, diciamo, musicali? Sì, o le a me prima nascono le musiche. E poi lei ci fa il però testo. Lei a volte magari capita che lavora già per conto suo a dei concetti, a delle cose. E se entrano in funzione insieme a questo, poi vive la democrazia. Beh sì, beh, diciamo che per il primo album è stato proprio le sue musiche prima e i miei testi dopo, anche perché sono arrivata qualcosa tipo 2 anni dopo con, sì, con i pezzi già belli che pronti, che palpitavano, avevano bisogno di essere tradotti in testo e di essere soprattutto registrati. Certo. E adesso è un pochino diverso perché uno, ci conosciamo molto molto di più e per cui le sinergie cominciano dal grado zero proprio della composizione e poi perché appunto essendo insieme, se uno ha un'idea la porta avanti e gli altri se piace, come giusto che sia, la arricchiscono. Sì. Ma insomma la democrazia deve esistere all'interno di un gruppo, giusto? Sì, assolutamente, però il leader ci deve essere, se no sì, non è un certo grande gruppo. E chi sa che ah, così era per rompere il ghiaccio. Sì, nessuno ha parlato. E chi sarebbe, scusa? Eh? Chi sarebbe? Fox, o Fox? Sono io, quello che non parla mai. E basta, insomma. No, comunque dopo viene tutto razionalizzato insieme, certo, viene lavorato, certo. Abbiamo anche un esperto che viene a dirci a livello orchestrale se le parti vanno bene, perché arrangiare orchestra per orchestra è difficile, certo. Si vuole chi lo vogliamo salutare? Andrea Bezzon, nostro produttore. Sì. Eh sì, tu hai detto una cosa molto giusta. Uno dei punti importanti del vostro disco è l'orchestrazione. Sì. Una base. È l'orchestrazione, una base fondamentale. La propulsione proprio nasce da quello, l'idea dell'orchestrazione. Sì. E non è semplice fare l'orchestrazione per un gruppo di un certo tipo. No, si può esagerare, si può andare su già sentito e già ripetuto. Sì. Sì, sì, sì. Beh, diciamo che infatti Andrea quando si è unito a noi è stato proprio perché mentre stavo registrando un demo alcuni anni prima di Upwards si è reso conto che mi sono proprio presentato lì senza una preproduzione, senza niente, a creare un qualcosa di orchestrale, mega, cioè così, senza saper suonare, senza saper niente, e ha sentito che c'era questa grande passione per e la possibilità anche di migliorarsi, e allora ho deciso di investire, insomma. Va bene, voi siete qui per suonare questa sera, Sì, esatto. Quindi ci dovete fare ascoltare l'acustico, il vostro acustico qui a Bruradio Veneto. Posso chiedere il permesso al nostro... Chiedi permesso. Possiamo suonare... Per questa volta. Cosa avete in mente di fare come prima canzone? Noi iniziamo con Close Call. E Close Call è una canzone rivolta a una persona vicina, può essere un amico, è pensata per un amico, può essere un partner. Comunque sia, è una persona che ti è stata vicina e che si è perduta a un certo punto del suo cammino. E questa è una chiamata al coraggio, al tornare sul proprio percorso più forti, ripercorrerlo con nuova energia. E questo grazie alla persona che ti sta vicino. Questa è la canzone che i nostri ascoltatori hanno già ascoltato da un po' di tempo a questa parte nella versione disco. Questa sera grazie. Invece, perché è una scelta, l'ha messa Maurizio, insomma, l'ha inserita nella programmazione. Grazie. E questa invece, questa sera ce la fate sentire dal vivo. Sì. Brave, all this twisted space. with the weather too strange. Gather fine, come around your brain. All this twisted spaces inside your mind. Come around your brain. All this twisted spaces inside. Don't make me wait this way. Let there be faith. It's not your fears I want. It's enough you care. Enough you care. Benissimo, questa è fondamentalmente una ballad, ed è una ballad come l'avete suonata stasera in questo momento in diretta 21:31, a me è piaciuta molto, la ballad ha un certo significato, perché ho parlato di folk? Sì, qua non è propriamente folk, però l'ispirazione è quella, ho letto da qualche parte che nasce dalla musica celtica la vostra ispirazione, cosa sì. Dici? Beh, l'hai detto te in un'intervista, sì, eh? Sì, ti ha scoperto. Ma è una cosa positiva. È la magia. La magia. È la magia. Quando le cose, ad esempio, le musiche mi ricordavano il Medioevo, mi ricordavano posti distanti, grandi spazi, grandi praterie, cose anche che non riesci a immaginare a volte. Quello è la magia. Esattamente. Qui il folk viene messo in questo punto, cioè queste ballate abbastanza lente, molto inglesi secondo me. Questa è molto inglese, non so se siete d'accordo. Sì, sì, sì, sì. Non americana, è inglese, assolutamente inglese. Ma nei pezzi appunto, a volte miei musicali, si sente proprio che arrivo quella, perché io veramente ho fatto... I geni di Beatles arrivano. Infatti, capito? Cioè io ho fatto degli ascolti veramente a 360 gradi. Certo. E il mio sogno è sempre stato cercare di portare come un grande minestrone ogni pietanza. No, ma è vero, secondo me la musica per tutti i generi hanno delle cose minestrone. Bellissime. Però prendere le cose belle di ogni genere e portarlo nella tua musica, questo era il mio sogno. Qui bisogna dare anche atto al produttore che vi ha instradato abbastanza bene. Sì. Decisamente ha trovato le cose, i momenti giusti per portare avanti un discorso. Poi la voce di Priscilla si addice molto a questo pezzo. Un pezzo, come si è detto, una ballad avvolgente. Dopo chiaramente la voce di Priscilla in altri pezzi è molto più pomposa, molto più potente, più epica, ma qui no, qui è cadenzata, qui è ammaliante, possiamo dire sì, così. Sì, sì. Beh, il nostro produttore che vorrei, ragazzi, io direi un attimo di parlare del nostro produttore, diciamo, artistico in studio. Dillo tu, così dice qualcosa, no? Beh, un'altra mente dietro a questa che è stata la composizione a livello di registrazione, esatto, dici? Si sta ascoltando che anche. Sì, serio? Sì, fantastico. Allora, beh, Marino De Angeli, mitico. Ah, okay. Beh, io devo tantissimo a lui. Tutti perché dobbiamo tantissimo. È vero. Già, sì, io devo dire che in studio con lui ho trovato la mia voce. È strano da dire, ma è stato così, per cui questo disco mi ha cambiato proprio per questo. E tutti quanti. Tutti noi comunque siamo entrati in un modo e siamo usciti in un altro. Perché ci ha insegnato a lavorare in una certa maniera, ci ha insegnato a suonare in una certa maniera, a darci un impegno, una disciplina, sentire. A sentirla. Ci ha insegnato tantissime cose, davvero. Non è stato solo registrare un disco, è stato molto di più. Esatto. E poi c'è stato il nostro Andrea Bezzon, chiaramente prima di tutti, proprio a livello ancora ancestrale, ha sentito le nostre emozioni, quello che volevamo esprimere, e le ha capite, ci ha capiti molto. E poi un ultimo grande professionista che ha lavorato nell'album, Giulio JJ Farigliosi. E che saluto anch'io, che conosco. È veramente prezioso. Che si sia fatto biondo. JJ! Ma sai che, non lo so, ma mi sembra, non so, non, mi informerò. So che sta facendo qualcos'altro, stanno per uscire le nuove canzoni del suo gruppo, dei Summertime, quindi probabilmente... Sì. Ci sarà qualche video, quindi vedremo se Giulio sarà biondo, rosa o giallo, verde. Comunque grande professionista, biondo, rosa, verde che sia. Io, se mi consentite, volevo salutare, non so se ci sta ascoltando, ma una vostra ex componente, diciamo, del gruppo, che si chiama Elisa Saglia, che è una violinista che suonava ancora. Beh, ma lei è benvenuta a suonare quando vuole, in realtà. Non so se la chiamerete ancora, insomma, queste non sono cose vostre, ma insomma io la saluto chiaramente perché è una carissima amica, insomma. Beh, tutti la salutiamo. Ma e devo farvi una confessione, sono onesto con me stesso anche con voi, è merito suo se io vi ho conosciuti. Grazie Elisa. Grazie Elisa. Ma in realtà Elisa non lo sa, ma tornerà a suonare con noi, lo stai scoprendo? Adesso. No, nel senso che stiamo preparando degli spettacoli per i teatri anche forse. E quindi ci servirà un sestetto d'archi. E quindi lei c'è. E quindi lei c'è. Mi terrete se vuole. Se vuole, se no anche... Prima parlavo con batterista, oggi suona la tastiera, Francesco, però una cosa fondamentale, alcuni critici hanno scritto manca un assolo, ma noi abbiamo parlato al microfono spento, ma cosa serve l'assolo se c'è l'amalgama totale della band? L'assolo non serve. Guarda, io volevo darti proprio una chicca su questa cosa. Dimmi. Qua, cioè noi diciamo ci sono molti modi in cui un gruppo... Perché voglio anche inserire altri, ovvio, dovete ovvio, parlare ovvio. Anche voi, ci sono molti modi, ma infatti adesso ognuno avrà da dire molte cose. Perché è interessante questo discorso. Ci sono molti modi come in un gruppo si creano i pezzi, eccetera, eccetera. E io, quando arrivo con delle idee, a volte sono già un po' fine a se stessi. Nel senso che la parte di piano, la linea melodica, la batteria, eccetera, eccetera, è tutto già un po' troppo chiuso nella composizione. Cioè, è ben definito, ecco. Non è un riff o una cosa su cui puoi costruire qualcosa. Ecco, come mi collego questo agli assoli? Agli assoli, sì. Questa è una bella domanda. No, sto scherzando. No, mi collego semplicemente che a volte non ci sono proprio stati gli effettivi spazi per creare degli assoli, oppure creare degli assoli o dei riff che interlazzassero insieme alla musica, cioè come si dice, che sì, a treccia nell'arrangiamento, ecco. Intrecciassero. E poi comunque ragazzi siamo nel 2012, gli assoli hanno... Sì, infatti posso dire una cosa, io che sono il chitarrista, vai, io vengo da Metallica, Thrash, quindi Metallica, gli assoli ci sono sempre assoli stati. Ogni 10 secondi. Esattamente. E nel 2012 secondo me hanno un po' stufato. Sì, ma non discriminiamo gli assoli. No, cioè, no, se hai sentito, no. È una cosa devono molto bella. Devono avere il loro spazio come tutto il resto. Infatti, noi siamo stati tutti molto uniti a decidere quanto spazio dare agli assoli, quando e in che pezzi. Non c'è mai stato fra me e Francesco una litigata tale tante su dove mettere l'assolo. Io lo volevo, lui no, lui lo voleva, io no. Mai successo. Perché siamo piace stati... fare gli assoli in una band come la vostra. Piace sì, ma deve essere un giro di tastiere, piace fare sentire un giro di batteria. Ma deve essere la musica basso, che te la chiama l'assolo. Certo. E se non te la chiama, non te la chiama. Esatto. Perché è vostra una produzione atipica, quindi è allontana dal genere vostro. Non è giusto. Giusto identificare un genere, no. Assolutamente, però si tenta a portarlo sempre con gli assoli, c'è poco da fare. È sempre stata la fisionomia del genere, così. Certo, ma infatti come dici tu giustamente, quando ce lo criticano noi siamo contentissimi. Perfetto. Vuol dire che stiamo uscendo da quel genere, certo. E questo ci ha sempre interessato. State allontanando, questo è importante. Certo. Abbiamo rotto il ghiaccio, ma adesso vogliamo continuare a navigare con la vostra musica. cosa ci fate ascoltare? Oh, deve parlare lui ancora? No, mi presento intanto. visto che devo ancora dire adesso. No, Michi. No, sto scherzando. Volevo dire qualcosa inerente, insomma, a questa tematica della sola, un dibattito molto interessante. Io dico la mia, la solo, ce ne sono due nel disco. Questo spiega tutto, insomma, nel senso che la musica deve chiamare, secondo me, sì. La solo deve... la canzone deve chiederti la solo, e se non ci sono è proprio perché volutamente non sono stati inseriti in questo contesto. Io personalmente la sento molto bene, cioè i due assoli che ci sono ci stanno, esatto, perché sono sentiti, perché quella solo emerge, si fa notare, perché è uno solo. Ormai l'epoca della solo è finita, insomma, basta, era anni 80, anni 90, adesso il suo spazio, come diceva Francesco, sì, e basta, insomma, può accontentarsi da solo adesso. Dobbiamo dare spazio a tante altre cose, come l'orchestra, che però se vorrà avere spazio glielo daremo, sì. Se vorrà, se la sua if, no? Sì. If. Giusto. If. Allora cosa ci fate ascoltare adesso? Sentirvi dal vivo. Adesso andiamo con Revelations, che è quella che sì, è una rivisitazione di Revelations. Sì. Revelations è assolutamente un brano elettrico, e dove siamo nel nostro pieno groove. Questa è una rivisitazione, Revelations, rivelazioni, diciamo quello che uno sente, quello che accade in un attimo di rivelazione, qualunque essa sia, qualunque modo uno voglia interpretarlo. Quando c'è una rivelazione cambia qualcosa. Ok, scusate. Crest of time, the place where timeless is my life. Now the mountains fall apart, I see the waters stupefy. Think I feel my body scream, I came into to explore, so you will be loved. Your destination, the only reason why I'm alive. Your revelation, shine your soothing light. Soothing light in my life. pain. I don't know how to explain. To explain. You're a destination. The only reason why. Bellissima versione, complimenti sinceri di cuore perché siete stati bravissimi. Grazie. Ne approfitto per salutare Chiara che ci sta ascoltando, la Chiara che tra qualche giorno se ne parte per gli Stati Uniti, però ci sta ascoltando e vi fa i complimenti, insomma vi saluta. Grazie, grazie mille, ciao Chiara. E poi ancora Antonella che è quella ormai una fedele ascoltatrice della Liguria, insomma conosce anche Gianluca oltretutto, è una nostra fedele ascoltatrice perché è nel mondo della musica, insomma è un ufficio stampa, quindi insomma è sempre presente. Insomma. Allora, Maurizio. Fammi un'altra volta l'inizio di basso, visto che è partito tutto dal tuo basso, questo pezzo qua, me lo fai un'altra volta. È molto, molto importante secondo me l'inizio di basso, il click sul basso. Il basso ha cominciato, ha dato delle note e poi lo sviluppo del pezzo. Secondo me è un pezzo fondamentalmente pop, per me è un pezzo pop questo qua, che sì, si avvicina, si allontana a qualche ritmo sinfonico, ma poi ritorna sul... Diciamo che probabilmente il punto di partenza... è pop, sì. Poi all'interno del brano lo sviluppo, ma è sempre pop, ma il pop vuol dire popular, non è mica una roba negativa, assolutamente positiva, sì, assolutamente positiva. È una melodia, vera e propria melodia che prende, accattivante, e comincia con un bel giro di basso, e questo è fondamentale, quindi rock, assolutamente rock, e poi viene il resto. Cosa dici? Mamma mia. Vai al microfono, vai al microfono. Sono incantato quando parli. Sì. Ma sei un musicista te? No, assolutamente no. Ne ho sentiti tanti musicisti qua dentro, ma tantissimi. Però questo ogni musicista ha la propria caratteristica. Mm-hmm. E questo, ripeto, per me è un brano pop, ma è molto avvolgente. E la voce di Priscilla dà questa caratteristica al pezzo. Ma il basso... porta in determinati lidi, però non propriamente come hai detto giustamente te il pop, però il basso è fondamentale, c'è poco da fare. Sì. Dimmi. Pensavo una cosa. ragazzi. No, dimmi qualcosa anche te. Fondamentalmente sì, grazie. Perché voi siete metallari nel senso positivo, non metallari, rockettari. Ma c'è anche grunge. C'è una differenza dai Nightwish e da tutti gli altri gruppi. Noi siamo italiani. E questo, secondo me, la melodia entra. Perché il calore che c'è in Italia, perché va un genere popolare molto leggero, diciamo, rispetto magari in Finlandia, dove primi in classifica ci sono i Nightwish, che magari qua sono 32esimi, per dire. Ma anche poco conosciuti, insomma. Poco conosciuti perché si fanno conoscere poco, nel senso che qui in Italia, bellissimo questo jingle così, mentre parlo. Poco conosciuti nell'ambito. Però sì. Però voglio dire che la musica popolare è quella che domina qua, la musica leggera, se vogliamo. E questo influisce quotidianamente in ogni persona. Perché sì, è vero. Vorrei sfidare Fox o Fabio se non conoscono il tormentone di st'estate. Cioè, perché anche spero di no. Spero di no. Però voglio dire... Sì, ho capito. Anche anni fa, George Harrison inconsapevolmente scrisse My Sweet Lord. Poi mi dice Gianluca qui vicino... La nostra Bibbia ha avuto pagare non so quanti milioni di sterline perché aveva copiato i Shed Fine da un gruppo degli anni 60. E inconsapevolmente si può capire. Però quello che dice Michele è una cosa molto interessante. Dimmi. Perché prendere... comunque il meglio del proprio paese, delle proprie origini, tradizioni, soprattutto in un paese come il nostro, in cui la musica dai musicisti è considerata un po' esterofoli. Purtroppo sì, è un concetto. Però invece noi pensiamo che che comunque si possa prendere del buono nel nostro, nella nostra musica, insomma, e portarla anche in un genere opposto come il metal o il rock opposto. Quindi avete mediato praticamente in questo Ma non è stata una mediazione, mediazione nel senso positivo. Sì, è una mediazione, ma non un compromesso. No, no. È stata la musica che è uscita così. Sì, ma nemmeno voluta. No, no. La nostra musica è uscita così e siamo molto soddisfatti anche di queste. Ci piace quando ce lo dicono, ce lo fanno notare, perché vuol dire che il messaggio è arrivato. Sì, sì, beh, io ho sentito questo, ve l'ho detto immediatamente, ho capito, cioè la melodia è fondamentale, come tu giustamente hai detto, anche se è un po' come nascosta o tirata, allargata, è sempre melodia. Ma per esempio anche prima, no? Sì. Beh, ci spiegavi quale secondo te era il nostro genere, adesso non mi ricordo neanche, romantic. Sì, beh, io rock, l'ho preso da una definizione, anche se per me posso dire una cosa. Era solo per dire, scusa un secondo, che è un genere che non è tanto collocabile. No, non è collocabile. Questa cosa inconscia ha creato una nuova musica, no? Invece magari altri gruppi, magari anche italiani, sono più facili da collocare. Sono proprio perché si ispirano più apertamente a gruppi magari stranieri, no? Sì, sì. Ok. Tutto qua. Io non stavo dicendo. Ah, no, lui Maurizio. No, avevo concluso, avevo già parlato abbastanza. Andiamo con la musica. Torniamo. Dimmi, voglio dire qualcosa. No, tranquillo, vai. No, io volevo ancora ascoltarvi, insomma, visto che sono già le 21:50, siete qui per farci ascoltare. Sì. Cosa ci fai? È quella che piace tanto a te. Mi fai... Ti faccio Aurora. Aurora. Adesso ce la introduce Fabio. Ce la introduce Fabio. Ma c'è solo Michele, però, insomma. Fabio che non sa neanche dirlo Aurora. È per quello. Allora, come nasce questa canzone intanto, visto che è una delle mie preferite? Chi è che ce lo descrive io. Un po'? Tu. Tipo, come nasce questa tu. Canzone? Nata da te. Lo so che è nata da me. Però a volte è un po' difficile da spiegare come una canzone così, diciamo... Che prende. È una ballad. Profonda, esce e basta. È una ballad. È uscita. Io, sinceramente, stavo provando una cavolata al piano. Ma proprio niente. Era un momento che non c'entrava un... Non c'entrava niente. Con il fare uscire un pezzo del genere. C'è proprio un periodo proprio niente, non c'entrava. Niente, è uscita. Niente, quindi insomma vuol dire niente, no? è veramente splendido. Infatti, quando me l'ha data in mano da completare a livello testuale, è stato un viaggio proprio all'interno di questa magia, di queste emozioni che vuole comunicare, sono state tradotte in contemplazione. Questo è un po' il contenuto emotivo che ho capito. È molto intensa, infatti. Una contemplazione che avviene rivolgendosi verso l'alto, quindi verso questa aurora boreale, e c'è un mito nella mitologia proprio nordica che dice che il mondo dell'aldilà transita e si rende visibile nell'aurora boreale. Infatti non poteva esserci, diciamo, un miglior tema per indirizzare la musica e la composizione di questo pezzo, che adesso mi ricordo che ho composto in due volte separate. Dopo le unite ho sentito che stavo componendo la stessa canzone in due pezzi diversi. Avevo detto no, questa qua deve essere così e deve finire appunto in un modo molto particolare. Infatti il finale, secondo me, di sta canzone, e ve lo consiglio appunto di ascoltare, è molto particolare, sì. Posso dire, tu che volevi le chicche, che questa qua quando sì. È venuto Francesco da me a chiedermi se suonavamo insieme, insomma, tanti anni fa, mi ha fatto sentire i pezzi di Apos più altri pezzi ancora in pre-produzione. E questa canzone qua proponibile, esatto. C'era già qualcosa. Questa canzone qua, che il titolo non lo dirò mai più in radio, perfetto. Oh, Bava. Esatto. È stato quello che più mi ha convinto a dirgli di sì. Insomma, adesso è qui. Visto oggi. Che sei qua, Francesco, tu suoni la batteria, ma come l'hai composta? Per piano, per chitarra? Sì, per piano. Io ho imparato a suonare un po' al piano da solo, ma così, diciamo, batteristicamente. E poi l'hai fatto sentire a lui? Sì, so gli accordi. Mm. Sì, ogni tanto, cioè, quando io l'ho conosciuto, gli ho detto, ciao, piacere Francesco, fra due settimane devo fare un disco, sei dei nostri. E lui mi fa, guarda, bevo una birra e che ne riparliamo. Ok. Era in una situazione veramente disastrosa, perché non avevo soldi, dovevo andare in studio, e niente, gli ho portato il materiale, e lui l'ha visionato. E lui iniziato... è il chitarrista della band, presente, sì, un grande chitarrista. Io l'ho visto come giochi con l'acustica, stasera hai l'acustica. Sì. Grazie. Allora, questa è una canzone che, come diceva Priscilla, a me piace tantissimo, ma vi consiglio veramente di non assolutamente abbassare il volume, anzi di alzarlo e di chiudere gli occhi e sognare con la voce di Priscilla e questa Aurora. Blu Radio Veneto. Like a prayer. Io ho la pelle d'oca, Paolo che è vicino a me anche, noi siamo tutti estasiati. Sì. Io prima stavo parlando del finale di questa canzone, ma noi, ovviamente, appunto, ci ho ripensato adesso, noi non potevamo fare il finale colossale che c'è nel disco, quindi questo qui è appunto fino a... Fino a prima del finale colossale. E quindi purtroppo non... Splendida, grazie Priscilla, grazie della dedica, ma è bellissima questa canzone, mi ha colpito subito immediatamente, una ballata straordinaria. Grazie a te. Grazie. In questa versione con Michele Francesco alle tastiere, con Michele soprattutto che ha dato il là, e ho visto anche il nostro bassista, ho visto il nostro bassista e il chitarrista che seguivano proprio anche se non suonavano, io questa versione, non so se siete d'accordo, l'ho sentita come operistica. Sì. Molto operistica in questo momento, secondo, ma non mica fatto una cosa negativa, nel senso positivo, operistica, cioè se le tastiere di Michele, il piano di Michele ti consentiva di andare su, di liberarti, di essere un po' più alto di tutto e fare una versione quasi da opera, secondo me, era leggermente operistica, ma non in senso negativo. E quindi una certa Sarah Brightman, sì. E una certa Sarah Brightman arriva. È lei che mi ha portato ad ascoltare la musica. È stata lei il tuo punto di riferimento. Sì. prima facevo tutt'altro, poi ho cominciato ad ascoltare lei. E prima nel Fantasma dell'Opera, io mi sento molto speciale, ecco, perché il primo showing era nell'86, anno di mia nascita, e ti dico, vedi, è destinato, c'è una connection qui, però in realtà non è così, ma... La Fantasma dell'Opera, operistica. Arriva da là. Arriva da là, ma poi io in realtà in famiglia ho proprio un background operistico, e ho ascoltato quello, sono vicina tutti i giorni a quello, poi la mia città di Verona che ospita la meravigliosa arena dove c'è la stagione operistica, e io sono puntuale agli appuntamenti. Ma hai sentito anche Ozzy Osbourne però? Ah, certo. No more tears. Vedi, e Ozzy anche lui all'inizio faceva delle cose. Vedo Gianluca, non può parlare Gianluca, ma è lì qui presente. Gianluca, dici qualcosa su Ozzy Osbourne. Vuoi dire qualcosa? Su Ozzy Osbourne, Gianluca. Su Ozzy Osbourne, cosa ne pensi? Non lo so, di chi di... Su Ozzy, dove parliamo del discorso operistico. Anche Ozzy aveva qualche... qualcosa, no, che in realtà non sa cantare Ozzy, ma non però... importa se non sa cantare, è la predisposizione che aveva. Animale da palcoscenico, esattamente, un animale da palcoscenico. Io ho visto una barzelletta su Facebook oggi di Ozzy, no. C'erano praticamente due pipistrelli, il papà pipistrello e quello lì a letto, il bambino pipistrello, il papà gli diceva: stai tranquillo, non c'è Ozzy nell'armadio. Ah, perfetto. Ok, però nonostante tutto anche lui ha tracciato certe vie molto importanti. Io non amo il suo genere. Teatralità è la teatralità. Facciamo sentire qualche secondo dal finale. Come si può non amare una canzone del genere? Complimenti di cuore, veramente siete bravissimi. Questo è un pezzo straordinariamente bello. Grazie, sono rosso. Non ci credo. Allora, Maurizio, a che punto siamo? Siamo alle 22, esatto. Facciamo un altro pezzo da disco, cosa dici? Sì, io li volevo fare riposare a questo punto. Certamente. Sono le 22. Sì, perché li ho interrogati molto stavolta. E in profondità. Eh sì. È vero, però è piacevole secondo me, perché la gente a casa deve sapere, deve conoscere che cosa c'è dietro a un pezzo, questo è importante, io lo sento così. Grazie. Facciamo ascoltare l'altro video, quello che parlavamo con Priscilla all'inizio. Dove corro disperata in una fabbrica alla ricerca dei ragazzi, perché in realtà poi il contenuto è quello, loro rappresentano la mia radice e finché non mi ricongiungo con loro il video ha colori cupi, e quando invece mi ricongiungo con loro è invece luminoso. Perché sono le mie radici, la mia musica. Quindi Hollow Earth. E siamo in una ex fabbrica di zucchero, stupenda tra l'altro, Porto Gruaro. Quindi dalla Toscana al Veneto. Dal Veneto alla Toscana, è nato prima Hollow Earth, sì, esatto, però sì. Ne approfittiamo per salutare anche Alessio Creatura, che è un artista che è passato qui in questa emittente, che vi sta ascoltando e dice infatti, mi sono fermato un attimo per ascoltarvi, e questa è veramente una versione bella, si riferiva alla canzone di prima, insomma, la versione sinfonica. Grazie mille. Grazie Alessio. Allora ci ascoltiamo? Hollow Earth. Wandered here in despair into Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora una trentina di minuti con i Teodasia, con Agostino Spolore, con Maurizio Calzavara, ma soprattutto con Blu Radio Veneto. In questo momento, appunto, come dicevo, la musica rock sinfonica, chiamiamola così, mi permettete questa? Certo. Posso? Grazie. dei Teodasia. Io direi di far ascoltare ancora una canzone dal vivo, se siete d'accordo. Sì. Cosa ci... No. Non ti preoccupare, stai tranquillo. No, ti proponiamo un pezzo che non c'è nel disco. Bene, un'esclusiva allora. E è un riarrangiamento di un... tu l'hai ascoltato giusto il nostro vecchio demo? L'EP no, dove... No. Qualcuna vabbè. Non me l'ha mai mandato. No. E qua svegliamo cose. No, è perché forse dai, sì. Scherzo. Ho avuto un po' di tempistiche, mi rendo conto. No, comunque in questo demo ci sono dei pezzi che noi proponiamo appunto in live per allargare la scaletta. Certo. Uno di questi pezzi era molto rock. L'abbiamo tagliato fuori, l'abbiamo ricostruito da capo, abbiamo fatto un pezzo un po' più tranquillo. E questo, diciamo, è l'arrangiamento acustico del pezzo. E si chiama Windy Night. Prego. Windy Night. One, two, three, four. Thank you. Ne approfitto anche per salutare un'altra cara amica che ci sta ascoltando dalla zona emiliana, si chiama Linda, e le mando un grosso bacio e un abbraccio. E è stata qui anche lei ovviamente con il suo compagno, il suo cantante, e vi sta ascoltando anche lei ovviamente. Grazie, sai. Grazie. Grazie mille. Io devo dire una cosa, questo, se prima abbiamo parlato che il basso ha dato là, stavolta Fabio compagno ha fatto proprio un giro armonico in acustico molto interessante. Adesso me lo rifai un'altra volta. Questo viene dal folk, assolutamente dal folk. Poi però le cose sono cambiate, però la melodia è una melodia pregnante. Era un pezzo rock, mi dicevi Francesco. Sì, questo. Sì, sì. Diciamo, questo nasceva addirittura tranquillo come pezzo. Questo nasceva addirittura un pezzo proprio rock vero, con tanto di assoletto iniziale, che non mi ricordo neanche. E come mai l'avete trasformato in questa melodia a due voci tra Francesco e Priscilla? Allora, intanto il pezzo rock ci piaceva molto. Nel nostro demo, ma sentivamo che poteva funzionare anche come acustico, abbiamo tentato di farlo e ci ha soddisfatto ancora di più, perciò abbiamo deciso di tenerlo proprio così, lo facciamo così anche in live. E questo poi, questo giretto armonico, sì, che dici tu, è proprio un pezzo che è un giro che ho fatto proprio per questo acustico, per farla ancora più acustica di quanto acustica l'abbiamo fatta. Certo, ho capito. Mentre l'idea delle due voci è di Francesco Priscilla. Sì, questa è una cosa che cerchiamo di fare sempre quando passiamo da un pezzo rock a un pezzo acustico, aumentiamo la parte vocale perché lo rende più e più adesso è sostenuta la tastiera più di Michele. Sì, sempre, assolutamente, certo. Il piano di Michele. Certo, il piano di Michele è un elemento fondamentale. E quindi in questo pezzo gli elementi fondamentali sono la tua chitarra, l'acusticità della tua chitarra e il piano di Michele. Certo. Poi tutti gli altri sono dei contorni, per modo di dire, c'è anche il basso, chiaramente. Però Michele, la chitarra tua e la tastiera di Michele sono la base del pezzo, secondo me. Sì, abbiamo proprio deciso di portarlo da un pezzo rock a un pezzo piano e chitarra. Esattamente. Questa è una canzone che farà parte del prossimo disco? No. Però secondo me qualcosa pescherai. No, perché è già registrata, no? E quindi ha i suoni di Upwards, solo che non c'era nel concept e forse anche a livello di spazio non ci sta. La useremo, la useremo per qualcosa. Nel concept, intendo, ne avevamo deciso di metterla per i testi per si usciva un po' dal resto poi dell'album. Comunque andava ad abbassare non l'attenzione del disco, c'erano troppi lenti nel disco, quindi era una scelta artistica. Sì. L'equilibrio. Ecco. Esattamente. Sentite, mancano 15 minuti, allora io direi di far ascoltare una canzone ancora dal disco. Certo. Poi torniamo in studio, diciamo le ultime cosine e ci fate l'ultima canzone dal vivo. Assolutamente. Va bene? Cosa ci avete scelto? Non ti ricordi più? Sì, Pandora's Night. Questa canzone? Pandora's Night. Allora qui diciamo che entra un growl. Entra un growl. Si mi sta scordando. Entra il growl. È un brano abbastanza elaborato. Era tanto lungo all'inizio, poi in studio l'abbiamo tagliato. Cosa vuole significare questo brano? Diciamo che Pandora, sappiamo tutti il mito di Pandora, ci sono i mali del mondo e c'è l'antidoto che è la speranza. A questo punto c'è un personaggio che si vuole fare vaso di Pandora, vuole contenere dentro di sé i mali del mondo, questo perché si fa carico dei problemi altrui, ma questo diciamo non è il modo per affrontare i problemi, perché da una persona che soffre se ne fanno due che soffrono, i problemi bisogna affrontarli in un campo libero e cacciandoli, cavalcando sulla propria speranza, e questa è l'immagine del cavaliere che cavalca sulla speranza. E allora non ci resta altro che ascoltare Pandora's Night. We'll be right back. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci allora per gli ultimi secondi, minuti, insomma, insieme a questa band, i Teodasia, che sono venuti a trovarci questa sera qui a Blu Radio Veneto rigorosamente dal vivo. Li potete sentire, li avete già sentiti, ma li ascolteremo ancora con l'ultima canzone. Prima però ancora qualche informazione dobbiamo darla, insomma. Intanto il disco dove si trova? Beh, il disco si trova ovunque, siamo nei negozi dei dischi, quindi siamo distribuiti in Italia e in Scandinavia, dopo siamo distribuzione digitale, iTunes, CD Baby, e poi se volete venirci a trovare sul nostro sito www.teodasia.com, sotto la sezione shop, ve lo mandiamo noi direttamente, per cui con qualche autografino, qualche chicca in più, materiale in più, è quello il caso in cui possiamo mandarlo, senza spese di spedizione. Sì. Prossimi concerti? Prossimi concerti, Fabio? Allora suoniamo il 12 a Mantova con gli Elvenking, suoniamo il 15 a Porto Santa Margherita di Carle, sempre agosto, e poi ci siamo presi una pausa per ripartire da quest'inverno, che abbiamo un'agenzia con cui abbiamo cominciato a lavorare, perciò ci sono dei tempi tecnici, insomma. Sì. So che andate all'estero anche prossimamente, o no? Sì, andiamo all'estero invernale. È un ottobre, fine ottobre, inizio novembre, sì. Sempre discorso di prima. Ma diremo tutto nel momento in cui è definito. Sì. Certo. E quando sei a casa da sola cosa ascolti? Che non ascolti Teodasia, cosa ascolti te? Oh, così tante cose, io ho tante emozioni diverse, quindi sono sentimentale, ascolto anche il latino, perché no? Ascolto l'opera, musical, e poi ascolto il metal, adoro Rammstein, cioè quando mi sento in un certo modo, caspita, io devo ascoltare Rammstein. Ma però... è complicato starmi vicino. No, è bellissimo, ognuno ha i suoi gusti, insomma, per la musica ovviamente, insomma. Poi chi c'è? C'è Michele? Cosa? Ah no, va bene, lo stesso. Io, eccoci qua, allora io ascolto tantissimi, i miei tre dischi favolosi sono il Justice for All dei Metallica, il No More Tears di Ozzy Osbourne e Nevermind dei Nirvana. Volevo scommettere che finivi con Nevermind di Nirvana. Tocca a te, nostro bassista. Ma se devo parlare di tre dischi, sicuramente il primo è Moving Picture dei Rush. Mm. Questa è la mia band preferita. Poi... che sono ritornati in classifica recentemente, i Rush con un nuovo disco. Hanno fatto un disco. Okay. Mm. Poi The Wall dei Pink Floyd, direi. Mitico. E il 4 dei Led Zeppelin. Ah, Led Zeppelin 4, Stay with Weaver. Docet, vai. Sì, non sono in ordine di importanza. Dico U2 The Joshua Tree. Bellissimo. 87, fai bene, fai bene. Poi dico The Number of the Beast, Iron Maiden. Altrettanto però. Figo. Mm. E per terminare, End of an Era. Dei Nightwish, un mega evento live, insomma, imperdibile, una cosa incredibile. Francesco? Io non ce la faccio. Come non ce la fai? Ne hai tanti. Cioè, non so, tipo vado con l'MP3 nell'isola deserta. Ma avrai tre sì. Nominativi. Wishmaster, Nightwish, sicuramente quello me lo porto dietro. Mm-hmm. E, te lo dico io, tu poti in Crash dei Dave Matthews Band. È l'ultimo, sono indeciso tra il Best of dei Toto oppure o la discografia dei Beatles. Esatto, la discografia. Come ultimo disco la discografia. Beh, significativo che citi Dave Matthews Band, gruppo dal vivo strepitoso. Quanti dischi dal vivo hanno fatto? Gianluca, ti ricordi il io numero? Sì, io lo so. Sì, dimmi. Hanno fatto 6 dischi. Dal vivo, fate il conto. E di cui molti tripli anche. Sì. E sì, quadripli sì. Anche. Pazzesco. Ok. In onore tuo, bene. Africa Toto. Allora ragazzi, innanzitutto grazie di cuore di aver partecipato questa sera, di aver accettato il mio invito a venire qui a trovarci e a farvi ascoltare la vostra musica, insomma. Grazie a voi. Grazie infinite. Grazie. Io spero di avervi per il prossimo disco. Ah, lo speriamo noi. c'è già qualcosa sotto? È già tutto pronto. Sì? Sì. Sì, sì, noi scalpitiamo e produciamo musica al secondo. Le composizioni sì, sono pronte. Tempi di uscita non si sa. È quello il problema. Prima ci sono molte altre cose da fare. Appunto, stavamo parlando di organizzare i concerti, eccetera. Prima c'è il live. Fare upwards prima con tutte le risorse che abbiamo. Dopo, quando abbiamo un momento, io comunque ho avuto del tempo libero l'anno scorso e ho lavorato tantissimo ad alte produzioni. Seguendo il filone di Upwards, ero molto concentrato nella composizione dei pezzi e ho scritto veramente tantissimi brani da poter scegliere come cosa lavorare. Priscilla ha già iniziato col concept. Ma sarà un altro concept anche il prossimo? Sì, sì, sì. È difficile, però, due concept, un bel rischio, secondo me. È un bel rischio, sì. Infatti, stavamo lavorando. Intanto abbiamo buttato delle idee. Okay, non hai detto neanche che è un concept, non hai detto niente. Abbiamo, in realtà l'ho proprio definitissimo. Abbiamo appena iniziato. Se volete posso parlarvene al dettaglio. Sì, in questo momento. Esci di qua, una tegola, sai, non si sa niente della vita. Senti. Non sa niente della vita. Posso strapparvi una promessa? Lo venite a presentare qui? Sì, assolutamente sì. E allora ci parlerete di questo nuovo disco quando sarà il momento. Assolutamente. Giusto? Grazie. Grazie a voi ancora e io vi do l'appuntamento a domani sera. Maurizio, siamo qui di nuovo io e te. Sì, speciale anni 60. Anni 60. Anni 60, i gruppi beat del Veneto, veneziani, padovani. Interessante, parleremo di tante cose e parleremo e respireremo idealmente l'aria di quei tempi del beat italiano. Benissimo. Beat Veneto soprattutto. Allora, ci salutiamo con che cosa, ragazzi? Noi siamo con Temptress adesso. Questa canzone, due parole e poi ci salutiamo. Ma due parole, è un gioco di seduzione. C'è la protagonista che si sente strappata via la sua anima, il suo potere di volere, di capire, di concepire, per cui dice: ridammi la mia anima, altrimenti subirai anche tu questo gioco perfido che è la seduzione. Ok. Quindi ci salutiamo con i Teodagia, con questo pezzo rock ovviamente, ma non cambiate canale perché il rock continuerà ancora fino alle 24 con Alberto Presco del suo programma, assolutamente imperdibile, c'è anche la classifica, quindi è un appuntamento immancabile il giovedì sera. Ciao ragazzi e grazie ancora di cuore di essere stati qui questa sera e buon in bocca al lupo per la vostra carriera musicale. Crepi. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Tell myself I'll defy you, your cunning ways. Not just also Roy. Magic when you seduce. You left me nothing to fill my mind. You got power to be my lord. Oh, you got me in chains. You might hunt her.